Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Sullo stato di degrado di Pompei, su quanto sia ingiustificabile lasciar cadere a pezzi uno dei più grandi e famosi siti archeologici del mondo, si sono spese milioni di parole. Molte meno parole sono state utilizzate invece per cercare di raccontare delle soluzioni. È proprio quello che invece si è fatto a Trento in una due giorni di convegno all'interno della cornice di Trento Rise, un progetto dedicato a individuare delle attività nelle quali le nuove tecnologie possono essere utilizzate per generare una forte partecipazione di pubblico. Tecnologie che evidentemente possono essere applicate anche alla stessa Pompei. E Federico Pedrocchi ne ha parlato con Derrick De Kerchove, che appunto Federico ha incontrato a Trento, personaggio di livello mondiale nel campo dei multimedia e delle attività che utilizzano la rete come supporto, che ora insegna all'Università Federico II di Napoli e ha una proposta per salvare Pompei. Sentiamo. Com'è che possiamo usare nuove tecnologie e anche nuove strategie per creare una soluzione, una via risolutiva? Ho fatto più proposte che erano tipicamente legate alle tecnologie, specificamente per coinvolgere i visitatori a condividere, non solo a conoscere i dettagli importanti su ciascuno dei posti dove vanno, ma anche condividere con altri a casa, in America, Canada, Hong Kong, le loro impressioni di questa cosa in specifico. Questa è una cosa generale, usando di augmented reality, aerial tags, layers, sono tutti programmi e applicazioni che funziona benissimo per questo. C'è anche un'invenzione italiana molto carina che è Bubble View, creato da Roberto Carrara, che Bubble View è una cosa che permette di vedere una rovina e la vedere ricostruita, ma anche seguendo tutti gli angoli dentro dove sei. È una cosa molto brava e questa anche era una cosa che era interessante per la gente. Ok, questo è il consumo di Pompei internazionale. Salvare Pompei è un'altra cosa. Salvare Pompei vuol dire un coinvolgimento della gente con Pompei e con particolarmente le pezzi di Pompei che sono più minacciati, con la non rinnovazione chiaramente, ma la cura particolare dei vari posti che non sono minacciati, e per questo creare, usando di crowdfunding, il principio che la gente collaborando finanziariamente a partire di 5-10 euro fino a 3.000 e di più, alla costruzione, ricostruzione, protezione, cura infatti di una villa o un'altra. Come adottare una villa, quella del poeta, diciamo, o quella del cane che di cave cane, che ne so, ce sono abbastanza, creare un budget che si mette online e dare una data limite dentro di che questo budget deve trovare il suo finanziamento. Se non lo trova, il denaro non è usato, nel senso è ridotto alla gente che hanno investito. L'idea è di start, no? Di prime, dando per un progetto di 300.000 euro, dando 1.000 di qua o due, farla arrivare all'inizio a diciamo 20.000 per dare la sfiducia che si farà. E la gente mondialmente, gli amici di Pompei che esistono, Pompei Ubiquitu, cioè sono vari, questi gruppi sono quello che possono prendere questo suggerimento e portarlo all'attenzione della gente. Perché? Per tornare, come tutta la rete è sempre fatta per questo, tornare con intorno degli ostacoli che si presentano. Ostacolo finanziario certamente, ma ostacolo burocratico. Ostacolo dell'impossibilità tra i vari livelli di governo italiano, dal nazionale al comune. Allora lascia perdere, se il governo non sa farla, facciamola noi. E l'idea di salvare Pompei è esattamente questa. Ma questa azione deve però anche trovare un suo linguaggio, una sua modalità di relazionarsi alle persone, deve suscitare una partecipazione emotiva, non è semplicemente una chiamata, dateci dei soldi, state anche studiando un modo. Tutto si sa che i soldi sono quelli, non si investe soldi senza investire emozioni. l'idea primaria per me non era solo il denaro, era immediatamente il coinvolgimento della gente. Ho detto all'inizio un'adozione. Adottare non vuol dire semplicemente pagare per il ragazzo che tu hai adottato, vuol dire seguire, amarlo, essere coinvolto con questo ragazzo o questa ragazza. Adattare una città, adottare una villa, un albero, no? È un investimento emozionale a tal livello che è possibile di seguire anche non solo il progresso dell'investimento, tutti sperando aiutare un po' per arrivare alla somma che è richiesta, ma anche che si fa con questo denaro, la trasparenza che noi viene anche sulla rete, una trasparenza dell'uso del denaro. E anche l'interconnessione di questi amici di Pompei che per qualche caso hanno scelto questa casa e divengono amici intorno della casa. E si vedono alla casa un giorno, chissà, una volta che è rifatta c'è una fiesta per la casa. Questo dà un sentimento di comunità molto forte. Bisogna creare un ambiente, insomma, permanente. Creare un ambiente, ma anche creare veramente un coinvolgimento. Allora, come anche prendere la gente di Pompei per metterla dentro questi contatti internazionali, un'altra dimensione del progetto di cui stiamo lavorando. Certo, perché una partecipazione internazionale può creare una spinta ai locali, voilà, ad esserci. That's the idea. L'idea essendo che la gente possono avere un certo orgoglio di questa tensione che hanno, ma una tensione che non solo semplicemente del turismo tradizionale, ma di un turismo coinvolto. Più che un turismo, un'adozione, una presa di parte, una vera partecipazione. Bene, ci fermiamo qui. Appuntamento a domani.